Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Una nuova settimana di Eclettica. La settimana scorsa comunque sul calendario c'era, ma per noi di Eclettica è come se non fosse esistita. Infatti due settimane fa era la numero 27, questa è la numero 28, in compagnia di Giulio Caperdoni. Ci siamo presi qualche giorno di pausa grazie alla Pasqua ed eccoci qua a ricominciare in una settimana, come già vi avevo anticipato, del tutto nuova, non per l'Eclettica serale che rimane sempre alle 22 tutti i giorni tranne il lunedì, 30 minuti ciascuna, le quattro parti che vanno dal martedì al venerdì sera, poi sommate a 2 a 2 diventano trasmissioni in replica di un'ora al sabato e alla domenica sempre alle 22, ma soprattutto sono estremamente malleabili in quanto le trovate grazie al podcasting e le potete sommare come volete, ascoltare quando volete con il supporto che preferite, facendole diventare magari una trasmissione di 2 ore o addirittura 4, 8, 10, 16, 24 ore, insomma quante sono le parti che voi stessi volete sommare. Vantaggi e svantaggi per ciascuna delle possibilità che avete a disposizione, visto che le sto elencando, vi ricordo anche lo streaming, il peer casting, forse il più complesso da capire ma non da utilizzare, le poche istruzioni sul sito sono sufficienti, con il vantaggio che il peer casting vi garantisce una qualità audio migliore rispetto allo streaming, ma c'è un ma, garantisce continuità, quindi senza le pause di bufferizzazione, solo se sarete in tanti a cominciare ad usarlo, perché in pratica applica lo streaming lo stesso concetto del peer-to-peer, mi sto rendendo conto di usare termini molto tecnici, comunque di programmi come i Mule, quindi condivisione di risorse fra tutti gli utilizzatori. Ciascuno mette a disposizione la banda che ha in modo da poter far sentire meglio agli altri. Ecco, lasciamo i tecnicismi e iniziamo con Eclettica. Prima, come sempre, vi voglio ricordare, perché è il modo per mantenere il contatto, quello che è il mio indirizzo di mail, giulio@radiorockfm.com. Mi dicevano Pablo perché suonavo la chitarra. La notte che Amelio si ruppe la schiena sulla strada di Avigliana, ero andato con tre o quattro a una merenda in collina. Mica lontano, si vedeva il ponte. E avevamo bevuto e scherzato sotto la luna di settembre, finché per via del fresco ci toccò cantare al chiuso. Allora le ragazze si erano messe a ballare. Io suonavo. Pablo qui, Pablo là. Ma non ero contento. Mi è sempre piaciuto suonare con qualcuno che capisca. Invece quelli non volevano che gridare più forte. Toccai ancora la chitarra andando a casa e qualcuno cantava. La nebbia mi bagnava la mano. Ero stufo di quella vita. Questo era l'incipit de Il compagno di Cesare Pavese. I'm not afraid to I see you shiver with anticipation. un po' di brani da elencarvi. Per la precisione sono 3 i brani che già vi siete ascoltati in questa prima parte di Eclettica della 28ª settimana su Rock FM. Avete sempre la playlist a disposizione, la trovate sul sito, ma la trovate sempre prima che sul sito nella vostra casella di posta, nel caso siate iscritti alla lista nera. Per farlo, giulio@radiorockfm.com. Comunque abbiamo aperto con il brano che è stato oggetto di pillola quest'oggi, ovvero sia il nuovo di Nobody da Los Angeles assieme ai Mystic Chords of Memory, brano intitolato Broaden a New Sound, fra l'altro una canzone che ho già a disposizione anche in altre 2 versioni. In una di queste c'è Devendra Banhart e presto la sentirete ovviamente all'interno di Eclettica. Poi il nuovo per Roadrunner intitolato Yes Virginia dei The Dresden Dolls, una chitarra ad avere una presenza importante in Sing, il brano che ci siamo ascoltati, e poi sempre la chitarra ad avere una presenza importante, Rodrigo e Gabriela, messicani Sim ormai adottati dall'Irlanda e in particolar modo da David Gray, che se li porta in giro in tour. Tamacuna e Muleto è il titolo del brano, che è stato da un album che è prodotto da John Leckie. Pensate un po', mai l'avreste accostato alle atmosfere musicali che vi siete ascoltati, in quanto John Leckie è per esempio il produttore di Muse, New Order, Stone Roses e anche Radiohead. E a proposito di Radiohead, to yourself. Thank you. Rough Jam è il titolo del brano, Rough Trade invece è l'etichetta per cui incidono gli Islands. Non so se qualcuno di voi si ricorda dei Unicorns. Islands, come già ho detto quando l'ho trasmesso come pillola, nascono appunto da quelle ceneri. Ciao Giulio, da quando avete messo sul servizio mi capita spesso di scaricarmi un bel po' di puntate insieme e poi ascoltarmele con comodo quando ho tempo. Stavo per dire voglia, ma quella ci sarebbe sempre. Sono rientrato questa settimana dalle ferie, avevo un bel po' di arretrati. Sto ascoltando in podcast la puntata del 14 marzo, grande puntata. La sto ascoltando per la terza volta consecutiva. Mi hanno colpito in particolar modo Nico Case. Mentre l'ascoltavo per la prima volta facevo le tue stesse considerazioni sulla somiglianza con Grace Slick, gli Electric President e soprattutto i Liars. Sono andato subito su internet a cercare qualcosa, ma ho trovato cose completamente diverse, da quello che ci hai proposto, compreso il sito ufficiale www.liarsliarsliars.com. Ho sbagliato qualcosa? Cosa mi puoi dire di loro? Ti scriverò. Proprio con i Liars, citati nel precedente messaggio che vi ho letto, si chiude la prima parte di Eclettica di questa settimana. Anzi, no, si chiude effettivamente con i My Latest Novel dalla Scozia, The Reputation of Ross Francis, the loro Wolves. I'm a vampire. horses' tails made them gaunt and gay. Meadows told of travels, tales of grace, from tears of joy and smiles on every waiting face. Illustrious stories to the end, the people gathered round our effervescent friend, as heaven's gate swung to let him in. He uncrossed his fingers and allowed himself a grin. Please, sir, if you let me in, I'll prove, sir. Eclettica. Fine della prima parte.